La situazione è letteralmente insostenibile e ingestibile, nel senso che qui vivono 800 persone, questo centro ne potrebbe contenere al massimo 200 e ti assicuro che quando erano 200 erano già stipati in 10 in una camera, cioè già vivono in condizioni vergognose. Adesso, come dire, la soluzione del centro per ospitare gli 800 migranti è aver creato delle tende che quando piove entra l'acqua, quando sono 45 gradi non ci si può vivere, naturalmente. I video e le foto che abbiamo visto sono impressionanti, cioè allora mancano i servizi igienici, cioè i bagni sono otturati, c'è muffa ovunque, è davvero una cosa totalmente impressionante. Il vero problema, e i ragazzi ce l'hanno ripetuto in molti modi, è quel comunicato che avete visto, avete letto, quindi è scritto con loro e da loro, è il documento, cioè quello è il vero problema, perché, come dire, a loro viene impedito di avviare la procedura di richiesta asilo, che significa non avere in mano neanche un documento per dire sono regolarmente qua, perché quando uno fa richiesta d'asilo è regolarmente qui, significa che non poter lavorare, significa non poter accedere alle cure mediche, significa vivere nella totale precarietà, nella totale povertà, perché i quattro soldi che gli dovrebbe garantire il pocket money sostanzialmente non gli vengono neanche garantiti perché arrivano in ritardo. In più, quello che i ragazzi hanno visto e denunciato è che più nero è il colore della tua pelle, più i ritardi per avviare la richiesta d'asilo sono lunghi, perché vedono che in alcuni casi, quando non si viene dalla cosiddetta Africa nera, come dire, i tempi sono più rapidi. Però qui stiamo parlando di mesi che i ragazzi sono in Italia e che non hanno la possibilità di fare richiesta d'asilo, quindi non hanno la possibilità di vivere qui letteralmente. E questi ritardi chiaramente non sono ritardi tecnici, sono ritardi politici, sono sancire la loro clandestinità da parte dello Stato, e questo sì, è esattamente questo, cioè non gli si lascia la possibilità di costruirsi qui una vita, e poi naturalmente vengono fuori gli strali sui migranti clandestini eccetera eccetera, ma vengono prodotti dallo Stato. E l'impressione è che chiaramente non si voglia da parte del governo che vengano inseriti nel sistema di Dublino, ma che, come dire, si lascia nella totale precarietà, nella totale sospensione, in maniera tale che, come dire, non pesino, non gravino sullo Stato italiano. Però richiedere, avere il diritto d'asilo è appunto un diritto che viene, come dire, negato amministrativamente, insomma. Ragazzi parlavano del sovraffollamento anche relativo al cibo, perché le file per mangiare, le file per i servizi più basilari. Sì, esatto, perché queste cose ci sono sempre state, però appunto una cosa sono le file quando sono 150 persone, 180, quando sono 800 significa mai non riuscire neanche a mangiare, e in più, come dire, non avendo neanche soldi, cioè diventa, come capisci, un circolo vizioso da cui non se ne esce. Guarda, noi presumiamo che, come dire, dalla prefettura non arrivi la solita indifferenza sostanzialmente, per quello che non abbiamo chiesto tavoli, perché tanto è un modo per prendere tempo da parte loro per cercare di tenere buoni, se mi permetti l'espressione, i migranti, ma come vedi i migranti sono carichi e non voglio qui star buoni e zitti. Il comune lo abbiamo interpellato perché, dato che il sindaco, come sai bene, fa i giri del cosiddetto degrado dei quartieri della Bologna, che vede solo lui, comunque va bene, che venga a vedere il vero degrado, che venga a vedere come vivono le condizioni vergognose in cui vivono i migranti, e che lo lasci vedere anche voi giornalisti, ma in maniera tale che tutti lo possano vedere. Questo è il punto.